Friuli nel mondo, 101ª trasmissione dedicata agli emigrati, canzoni friulane d'oggi. Questa trasmissione accoglie, cari amici in ascolto, il terzo gruppo di canzoni eseguite nell'ultima sagra della canzone di Pradamano. Sono componimenti, su testi friulani, di giovani autori nostrani che, pur sollecitati dal richiamo di espressioni musicali moderne, hanno cercato di restare il più possibile aderenti allo spirito della friulanità. In ciò assecondati anche dai cantanti, tutti dilettanti, che hanno saputo mantenere l'esecuzione di tali componimenti sul piano della grazia e della proprietà. Nell'esecuzione di Pino Marzin trasmettiamo Che il biel garoful ross di Visentini e Maestrutti. Un'eccia zucche, un orto culi rosi, nebbia le frutte, un cuore innamorà. Questa è la storia di me proprietà. In tu strotta il mio porto, quando nato un ciantano, un garofulle spiega, gran via rossa e profuma, ma ne di passe une frutte, mi domande che rosute, a che biele di gino, rifudò si no si può. Che il biel flor, quel flor rossegno d'amore, un che rose io gli hai da, il mio cuore innamora. Se une frutte mi domande che rosute, a che biele vicino, rifudò si no si può. I regali che il biel flor, che il flor rossegno d'amore, che rose io gli hai da, il mio cuore innamorà, il mio cuore di Peloi e Bon. Eccovi ora la canzone dal titolo Concert di Ciampanis, cantata da Ulrica Calvori. Porte un flor new e che este mi porte Albionte Tessarin interpreta l'allegro motivo di Burrai dal titolo Lis Fantatis dal Nyoborg. Lis Fantatis dal Nyoborg son biondis come il sol. L'orno polente, dom il fan alle scontente, ma la mazza no abbandoni e con che fantazzo. Non vedo polente, dom il fan alle scontente, ma la mazza no abbandoni e con che fantazzo. La la la la la la la la la la la. Lis fantatis dal Nyoborg son altis come il sol. Lor noveni sortutis, domi scartis ben altutis, falsi vieni se minini se pare del cittadino. Lor noveni sortutis, domi scartis ben altutis, falsi vieni se minini se pare del fantatis dal Nyoborg son drettis come il sol. Lor noveni che li stoci, i fantasmi allora propri, e si azzardi in fassi sodure un pronto capelò. L'uno è di quelli stoci, i fantasmi allora propri, e si azzardi in fassi sodure un pronto capelò. Fantattis dal mio borg amorosi in tal sol. Vedi in veus o in sal, calzi bien, calzi ya, per poter fa poi il nite e non vecchio in dormivi. Vedi in veus o in sal, calzi bien, calzi ya, per poter fa poi il nite e non vecchio in dormivi. Mariutine è una composizione di Paroni e Venier, eseguita da Luigino Biancuzzi. Io non so in che mood fa, par potere domanda. Io non so in che mood fa, par potere domanda. A so pari e a so mar. Che mi fa incombina, che mi fa incombina. Mariottine, Mariottine, io ne biele fantazzine, tamminine, graziose, che io presperi morose. Mariottine, Mariottine, vienti brune, biondine, rizzotine, morbinose, che si vuoi sarà me spose, no vuoi poi sta tribula, la io drebbo e la rata, no vuoi poi sta tribula, la io drebbo e la rata, e così color consens, o sarin sicurus contens, o sarin sicurus, o sarin sicurus contens. Mariottine, Mariottine, quelle fantazzine, rizzotine, morbinose, che sicuro sarà me spose. Ascoltate infine la voce di Maria di Leno, che interpreta la canzone di Paroni e Michelutti intitolata Sulis Cunis. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 101ª trasmissione, a cura di Ermete Pellizzari.